La rosa da tua è il simbolo sul mio petto vibra dolcemente con il mio respiro la tenue rosa blu. Non si cancella sempre vivrà e solo con me un dì morirà. La tenue rosa blu non si cancellerà, con me per sempre vivrà e solo con me. Tatuata, so.